America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. A federal appeals court in San Francisco has just declined to reinstate President Trump's temporary ban on refugees. Avete sentito il newscast? La Corte d'Appello del Nuovo Distretto di San Francisco ha deciso di nuovo contro Donald Trump il suo decreto che impedisce l'ingresso in America di rifugiati, cittadini di 7 nazioni prevalentemente musulmane, resta bloccato. Conferma così la decisione del giudice James Roberts di Seattle di venerdì scorso. Trump ha risposto immediatamente con un tweet dicendo: ci rivedremo in tribunale. Non è chiaro quale tribunale, perché adesso o si andrà alla Corte Suprema oppure si tornerà alla stessa Corte d'Appello. Ma quel che mi interessa, al di là della notizia di cui parliamo ormai da parecchi giorni, è che una notizia di questo genere, nel momento in cui la dico, suscita, come dire, delle reazioni da parte di coloro che sostengono Donald Trump e ritengono che per il semplice fatto di dare una notizia di questo genere io attacchi Donald Trump. Ebbene, ieri ho dimostrato che non è così, le notizie sono notizie e purtroppo quando escono dicono esattamente quello che devono dire, sono dei fatti. E dunque ieri ho dato spazio, proprio per dimostrare che nel dibattito io do molto spazio anche a Trump, a Maria Giovanna Maglie, che è una fervente sostenitrice di Donald Trump. Oggi facciamo il contrario e sarò io a fare l'avvocato del diavolo di Donald Trump. Chiacchiererò con un collega che è, diciamo, critico nei confronti di Trump e comincio con l'attaccare, tra virgolette, Elizabeth Warren. Elizabeth Warren è diventata beniamina dei giornali liberal perché al Senato è stata passata una mozione che la imbavaglia, tra virgolette. Perché? Beh, perché si era dilungata a parlare troppo a lungo, aveva fatto ostruzionismo e dunque alla fine ha detto basta, insomma, cara Elizabeth, tu devi smetterla. E io dico: ma sì, in effetti il Parlamento dovrebbe essere usato in modo costruttivo e non solo per ostruzionismo, tanto più che poi Jeff Sessions, si sapeva, sarebbe stato approvato lo stesso. Bene, ieri Maria Giovanna Maglie pro Trump, oggi ai microfoni di America 24 par condicio, beh, un collega giornalista contro Trump, Federico Rampini. Buongiorno Federico. Buongiorno. Allora Federico, beh, intanto non ho detto qualcosa di scorretto dicendo che tu non sei uno stimatore di Trump? No, mi puoi tranquillamente catalogare fra i critici, anche se mi sforzo di non avere un atteggiamento preconcetto, cerco anche di vedere il buono che forse ci può essere. Ad esempio mi sforzo di vedere anche le convergenze tra populismi di destra come quello di Trump e populismi di sinistra verso i quali mi sentivo più attratto, come quelli di Bernie Sanders o della stessa Elizabeth Warren che hai appena citato. Tu dici sì, io cerco di essere obiettivo, ma credi che sia davvero possibile essere obiettivi? Forse no, è un dibattito che ci porterebbe addirittura a citare i grandi della filosofia classica, quindi non so nemmeno se sono all'altezza, però almeno lo sforzo in buona fede bisogna farlo. Torniamo un momento alla Warren. Questa resistenza per la resistenza nei confronti di Trump, addirittura resistenza prima ancora che diventasse presidente, secondo te non era un po' eccessiva? Cioè, in fondo, questo signore è stato eletto presidente degli Stati Uniti d'America, doveva diventare presidente, questo dico prima ancora del suo discorso di giuramento, eppure già si cominciavano a pianificare delle dimostrazioni, c'è stata la grande protesta delle donne. Secondo te, uno, non era un po' troppo? Cioè, questo ha vinto, la democrazia vince uno. Beh, facciamogli fare quello che deve fare e poi vediamo, benefit of the doubt, come si dice, o no. Ricordiamo però che Barack Obama vinse sia il voto popolare sia il collegio elettorale e questo non impedì che i repubblicani gli facessero un'opposizione senza quartiere, spesso ricorrendo all'ostruzionismo. Ricordo l'ultimo episodio, il più clamoroso, quando morì il giudice Scalia e Obama aveva tutto il diritto dovere di designare il successore, il Senato a maggioranza repubblicana si rifiutò addirittura di esaminare il candidato di Obama. Quindi in un certo senso l'opposizione dura alla Elizabeth Warren è semplicemente un restituire pan per focaccia. Ti faccio una critica, perché ieri attaccavo Trump con Maria Giovanna Maglie e con te invece devo difendere Trump, naturalmente, no? Perché così cerco di dire a quelli che mi attaccano sempre, Federico, forse non te l'avevo detto, ma mi scrivono: tu sei un anti-Trump. Non voglio immaginare cosa scrivono a te, ricevi email. Guarda, a me scrivono non solo che sono un anti-Trump, ma di solito nella stessa accusa ci includono che sono anti Putin, perché i fautori di Trump che mi accusano sono anche molto putiniani, questa è una cosa interessante. Ecco, però allora tornando a bomba, la prima conferenza stampa di Donald Trump, ha parlato di varie cose, io mi ricordo che andavo un po' così sui siti e sono capitato su Repubblica, c'era un tuo video in cui dicevi che Donald Trump in questa conferenza stampa era stato un bugiardo perché a chi gli chiedeva le sue dichiarazioni del reddito, Trump rispondeva che no, lui le dichiarazioni del reddito non le dava perché era nel mezzo di un audit fiscale. E tu hai detto: non è vero, si possono dare. I giornalisti addirittura dovevano dirgli bugiardo. Ecco, era una notizia, perché era dopo le elezioni questo. Allora ecco che magari qualcuno che ti scrive dice: ma tu sei fazioso su Trump, sul povero Trump. Su questo, magari su altre cose posso essermi sbagliato, su questo sono convinto di essere nel giusto, come molti giornalisti, colleghi americani. È dall'epoca di Richard Nixon che è invalsa la consuetudine, non è una legge, non è un obbligo di legge, ma è una consuetudine ormai abbastanza consolidata, di pubblicare le dichiarazioni dei redditi. Non si vede perché proprio lui, che ha una situazione fiscale complicata o addirittura sospetta, debba infischiarsene di questa tradizione, ignorarla, calpestarla, per di più mentendo, perché quell'argomento che lui ha usato più volte di dire non posso pubblicare le mie dichiarazioni dei redditi perché sono sotto accertamento è un falso clamoroso. Federico, chiudiamo, ma c'è qualche cosa in Trump uomo presidente che ti piace? Ti ricordi, fu l'ultima domanda in uno dei dibattiti. Certo che c'è, e lo scrivo anche quotidianamente. Mi piace il fatto che lui butti via il politically correct, chiami le cose col loro nome, per esempio il terrorismo islamico. Mi piace il fatto che lui voglia difendere i posti di lavoro americani anche strappando rispetto a una certa tradizione di omaggio alla globalizzazione che secondo me è ormai superata. Ci sarebbero gli altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Federico, siamo sempre in linea. Canzone del giorno, cosa scegli? Mi viene in mente un grande artista che in questo momento è in tournée in Italia, Art Garfunkel, che è stato famoso quando io ero ragazzo in coppia con Simon, ha avuto una lesione alle corde vocali, per anni ha dovuto smettere di cantare, adesso la sua voce non è più tornata a quella di una volta, ma io ho ancora tanto affetto per lui. Propongo Like a Bridge Over Troubled Water come un momento di calma, di riflessione in mezzo a un frastuono assordante. Ottimo! Bridge Over Troubled Water, Art Garfunkel, anzi Simon & Garfunkel. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!